9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 17 di luglio, auguri a tutti coloro che si chiamano Alessio e Dors, come vedete purtroppo reggono e come, perché l'avvicinarsi della quota dello spread 500 fa chiaramente intendere che il pericolo di cui spesso vi ho paventato, che in questa estate senza tagli al spread il mercato venisse a fare toc toc alla porta della stabilità e della solvibilità del nostro paese, ed è evidente che il Fondo Monetario, nel premere come ha premuto ieri, striglia l'Unione Europea ma striglia anche l'Italia sullo scenario, e ce ne occuperemo di sicuro uno di questi giorni. Quello che potrebbe attendere purtroppo l'Italia nel caso in cui soglia 500 rimanesse stabilmente per diversi giorni, quella del il premio del nostro decennale su quello tedesco, e purtroppo c'è già una proposta che può riguardare l'Italia, è una proposta purtroppo che vincolerebbe per molti anni quote molto rilevanti del nostro gettito a fare ciò che la politica non ha fatto in tutta la Seconda Repubblica, cioè abbattere il debito pubblico con cessioni degli attivi patrimoniali. Ma oggi teniamo questa cosa sullo sfondo, perché il tema della giornata è un altro, ed è il tema sul quale l'apertura di tutti i giornali è oggi obbligata, e stiamo parlando del Quirinale, stiamo parlando di questo altolà che dal colle più alto della Repubblica è venuto ai pubblici ministeri di Palermo, sollevando un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte Costituzionale per le modalità con le quali sono avvenute intercettazioni telefoniche e le modalità le quali sono state utilizzate per la loro conservazione e utilizzazione. E la vicenda relativa alle telefonate di Nicola Mancino al Quirinale, e Nicola Mancino preoccupato di ciò che la Procura di Palermo stava facendo intorno al famoso nodo della trattativa Stato-mafia, e prima di giungere a questa decisione da parte del Quirinale a sollevare, a occuparsi con grande insistenza del caso, è stato soprattutto Il Fatto, il giornale diretto da Antonio Padellaro, e devo dirvi la verità, in questa vicenda io la penso esattamente come i colleghi del Fatto. Per tante volte durante gli anni del centrodestra capitò che membri del governo sdegnati suscitassero grandi polemiche dicendo Tizio Caro ha intercettato, però poi alla fine parlava con me, e parlando con me l'intercettazione doveva essere interrotta, non doveva essere trascritta, e così via. E tante volte con grande pazienza si è dovuto spiegare che, al di là del fatto la legge piaccia o non piaccia, in quel caso la si cambia, ma la legge prevede che le intercettazioni vengano disposte per coloro nei confronti dei quali questa misura viene chiesta dal magistrato, quell'utenza per tutto il periodo di tempo dell'intercettazione è sottoposta non a un signore che si mette con la cuffia e trascrive le telefonate, ma a un dispositivo automatico che registra le telefonate in entrata e uscita. Se nelle telefonate in entrata e uscita incappa, c'è per caso o per necessità, questo altro paio di maniche, un parlamentare, eccetera, eccetera, o in questo caso il centralino del Quirinale, il capo dello Stato stesso, i suoi consiglieri, non è che automaticamente il dispositivo si autoelimina e la registrazione si sospende. Così la penso io, almeno. Però poiché questa è solo la mia opinione, mi trovo quindi rispetto a tutto ciò che trovate sui più dei giornali che invece hanno considerato la Procura di Palermo come indebitamente portatrice di una linea lesiva delle prerogative del Quirinale, e siamo arrivati fino a questo conflitto di attribuzione, è qui con noi il vice direttore del Fatto Marco Travaglio, io molto lo ringrazio di questo, e mi sembra cosa buona e giusta che sia lui a spiegare la linea che il Fatto ha seguito e sulla quale minoritariamente, non so negli ascolti o nel cuore, nella testa degli italiani poi come sarà, anch'io mi colloco. Buongiorno e grazie a Marco Travaglio. Buongiorno agli ascoltatori. Allora, oggi il pezzo che scrivi in prima pagina dice: beh, come si vede abbiamo fatto bene a occuparci con tanta insistenza di questa vicenda. Beh sì, perché poi alla fine il discorso è sempre lo stesso: guardiamo il dito o guardiamo la luna? Il dito è oddio, hanno intercettato il Presidente della Repubblica, che cosa fare quando finisce intercettato sul telefono di un altro il Presidente che è immune, o prima di lui il capo del governo o un parlamentare, per intercettare i quali è necessario comunque l'autorizzazione del Parlamento. La luna è che un giorno un privato cittadino molto potente, molto amico di Napolitano, e cioè Nicola Mancino, si rivolge al Quirinale per ottenere favori indebiti, favori che se li chiedessimo noi comuni cittadini ci vedremmo staccare il telefono del centralino del Quirinale o non riceveremmo nemmeno risposta dal centralino del Quirinale, figurarsi riuscire ad arrivare al consigliere giuridico di Napolitano e poi a Napolitano in persona per ottenere interventi indebiti, interferenze su un'indagine giudiziaria in corso che non riguarda furti di bestiame o, che ne so, balconi abusivi, razzi abusivi, ma riguarda la trattativa fra lo Stato e la mafia. Questa è la luna. Che cosa succede quando Mancino, privato cittadino, chiama il Quirinale per ottenere che intervenga e interferisca in quell'indagine per indirizzarla su una via morbida e devitalizzarla, con pressioni del Quirinale, lettere ufficiali ma segrete del Quirinale al Procuratore Generale della Cassazione e convocazioni del Procuratore Nazionale Antimafia Grasso affinché in qualche modo striglino e imbriglino la Procura di Palermo, succede che il Quirinale, invece di staccare il telefono a Mancino e di dirgli rivolgiti nelle sedi competenti se hai qualche lamentela, ci sono tutti gli strumenti per farti ascoltare, vanno avanti senza averne alcun potere, perché il Quirinale non ha alcun potere di coordinare o di indirizzare o di strigliare così con telefonate tra il lusco e il brusco magistrati nell'esercizio delle loro funzioni. Questo è il punto. Anche all'interno, perché poi all'interno qua, no, aspetta, vai, anche vai. Perché io ci volevo semplicemente poi richiamare a chi ci ascolta, anche perché non è che in realtà poi la Procura di Palermo ha distribuito i testi, cioè noi non sappiamo assolutamente nulla, quindi la lesione in questo caso in realtà in che cosa consiste? Semplicemente nel fatto che non è stata staccata la spina. Guarda, qui siamo, se non fosse un caso drammatico, i giornali che lo chiamano scontro istituzionale, non c'è nessuno scontro, c'è un attacco del Quirinale alla Procura di Palermo, c'è uno che le dà e l'altro che le prende, c'è uno che fa delle cose che non dovrebbe fare, il capo dello Stato e il suo consigliere, e poi per coprire queste cose fa un'altra cosa che non potrebbe fare, e cioè appunto, come dicevi tu, pretendere la distruzione immediata o addirittura preventiva, la non registrazione di telefonate. Qui siamo veramente al paradosso. Come ricordavi tu, le intercettazioni telefoniche funzionano così. La procura dice: ho il timore che queste persone si mettano d'accordo per dare versioni di comodo e inquinare le prove, oppure ho il timore che queste persone stiano organizzando un attentato, oppure devo vedere se queste persone sono coinvolte in quel delitto. Benissimo, chiedono al GIP di mettere sotto intercettazione un telefono. Da quel momento, se il GIP la concede l'intercettazione, la compagnia telefonica, che è naturalmente responsabile delle linee telefoniche di una persona, su richiesta della procura mette sotto controllo un telefono con un'apparecchiatura ovviamente tecnologicamente avanzata, che per tutta la durata del decreto di intercettazione tiene sotto controllo quel telefono. Poi certo che l'intercettazione è di tanto in tanto controllata per vedere se il telefono è ancora attivo, se il telefono viene spento dalla polizia giudiziaria, ma non è che c'è un omino nascosto dentro il telefono o direttamente e perennemente all'ascolto, anche perché ognuno di noi ha più utenze, abbiamo l'ufficio, abbiamo casa, abbiamo almeno una scheda di telefonino, abbiamo l'iPad, abbiamo Skype, hai voglia quante utenze devi tenere sotto controllo per intercettare una persona? Quindi è evidente che alla fine, quando hai finito la pesca, vedi il pesce che hai pescato e scremi le intercettazioni utili e le intercettazioni inutili, le intercettazioni penalmente rilevanti e quelle penalmente irrilevanti, e soprattutto se incappi in qualche telefonata di qualcuno coperto da immunità, a quel punto c'è una legge molto precisa che riguarda l'utilizzazione, l'utilizzabilità di quelle telefonate. Se io, privato cittadino Marco Travaglio, chiamo il capo dello Stato e gli dico: guarda che ho appena strangolato mia moglie, e cosa deve fare il magistrato? Buttare via? Far finta di non sentire solo perché l'ho detto al capo dello Stato che è immune? Ma chi se ne frega se il capo dello Stato è immune? La telefonata deve e può essere utilizzata per processare me per l'omicidio di mia moglie. Quindi la legge è chiarissima ed è razionale. Per usare queste telefonate contro la persona immune bisogna chiedere il permesso al Parlamento. Per usarle contro il Quirinale non si può, perché il capo dello Stato non può essere perseguibile per i reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni, a meno che i reati non siano attentato alla Costituzione e alto tradimento. Negli altri casi può fare tutto quello che vuole nell'esercizio delle funzioni, non può commettere dei reati comuni, perché quelli non sono nell'esercizio delle sue funzioni. Questo invece è il caso in cui, se avesse fatto con Mancino dei reati, sarebbero stati nell'esercizio delle funzioni e non sarebbe stato perseguibile. Ma se quelle telefonate sono utili per dimostrare che Mancino tentava di inquinare le prove, perché i magistrati dovrebbero distruggerle o non ascoltarle, o, come dice qualche sciocco, addirittura evitare di registrarle? Lo si vedrà alla fine del procedimento, quando si terrà la famosa udienza davanti al GIP. Perché non puoi distruggere una cosa così, tu pubblico ministero o tu poliziotto, senza dire niente a nessuno? Per evitare abusi. Certo che ci vuole un giudice terzo per prendere una decisione del genere. E se poi si scopre che hanno distrutto qualcosa che invece serviva all'accusa, ma soprattutto se si dimostra che hanno distrutto una telefonata che serviva a una delle difese, il PM potrebbe essere, se è un mascalzone, o il poliziotto, se è un cialtrone, potrebbe dire: io distruggo questa roba qua, senza accorgersi che poi un domani potrebbe servire a una difesa, cioè a un accusato. Ecco perché tutte le parti coinvolte nell'indagine devono poter ascoltare le intercettazioni, anche quelle che il PM ritiene non rilevanti, perché io PM per la mia accusa posso ritenere irrilevante una cosa che invece un difensore può ritenere rilevante e utile, certo, per difendere il suo cliente. Stiamo parlando di norme garantiste, non appunto di norme forcaiole. Allora, io chiedo di dover difendere il garantismo da questa campagna che si sta scatenando solo per dare ragione, a dispetto dei santi, al capo dello Stato, che invece, mi dispiace dirlo, ma ha torto marcio. Allora, io chiedo a tutti gli ascoltatori di chiamarci per farci sapere il prosieguo della trasmissione, come la pensano intorno a questo conflitto di attribuzioni sollevato dal Quirinale nei confronti della Procura di Palermo. Marco Travaglio, due domande per... La prima è: oggi il Corriere della Sera, in prima pagina, c'è un editoriale di Michele Ainis e dice: ma qui c'è un precedente è quando fu intercettato Scalfaro, Presidente della Repubblica, e in quel caso Leopoldo Elia dichiarò illegittime le intercettazioni telefoniche del Capo dello Stato, sia dirette che indirette. E questa è la prima considerazione, anche perché stiamo parlando poi di un nodo delicatissimo. Poi il merito delle telefonate per cui Mancino si muoveva era la ricostruzione della trattativa Stato-mafia in anni delicati, quelli degli attentati e così via, ed è ancora una storia che ovviamente noi aspettiamo di capire. Ma la seconda parte della domanda è: ti aspettavi di trovare un parallelismo così evidente rispetto alle vicende di Berlusconi intercettato per rubi, oppure dei tempi di Fassino, abbiamo una banca, e così via, da parte di questo Quirinale? Ma guarda, da quando ho cominciato a leggere ciò che scrivono i due commentatori più vicini a Napolitano, cioè Scalfari e Macaluso, che chiaramente riflettono quando scrivono di Napolitano esattamente ciò che sostiene Napolitano, ho pensato che Napolitano stesse preparando qualcosa di molto grave, perché se questi... Si sentiva le premesse, per così dire, nell'argomentare di Scalfari. Questi due opinionisti si spingevano a sostenere tesi così ardite, imbarazzanti, dal punto di vista del diritto, e per quanto riguarda Scalfari almeno a contraddirsi in maniera così palese rispetto a quello che il suo giornale Repubblica ha sempre sostenuto quando di mezzo c'era Berlusconi, immaginavo che stessero coprendo preventivamente una mossa molto azzardata e molto violenta anche dal punto di vista istituzionale, come quella del conflitto di attribuzioni, che è proprio una prova di forza, è come mettere la pistola sul tavolo e dire adesso vi faccio vedere chi sono io, no? Anche perché poi la consulta è formata da giudici nominati in parte anche da Napolitano, quindi e Napolitano si è scritto il decreto con cui fa il conflitto di attribuzione, quindi stiamo parlando anche di una forma di giustizia domestica, ecco, certamente non partono dallo stesso livello nella corsa il Presidente della Repubblica e la Procura di Palermo, quando il Presidente della Repubblica si rivolge alla Corte Costituzionale. L'altro punto invece è l'editoriale di Ainis, che poi voglio dire riflette esattamente ciò che hanno detto quelli che noi abbiamo chiamato i corazzieri, e cioè i difensori a prescindere del Capo dello Stato, che si erano già esercitati in questi giorni con delle tesi anche abbastanza bizzarre. Questa citazione del precedente di Scalfaro è in realtà un autogol clamoroso. Che cosa è successo? È successo esattamente quello che sta accadendo in questi giorni in un'indagine di Mani Pulite da parte della Procura di Milano. Noi ne parliamo oggi con un'intervista a Gerardo D'Ambrosio, che all'epoca era procuratore aggiunto e poi procuratore capo a Milano. E che dice che lui, al posto della Procura di Palermo in questa vicenda, lui dice che la Procura di Palermo ha rispettato la legge e avrebbe fatto esattamente quello che ha fatto la Procura di Palermo. Guarda, se i magistrati non fossero molto timorosi di dare torto al Capo dello Stato, che è anche il Presidente del CSM e che è anche quindi il responsabile dei procedimenti disciplinari nei loro confronti, tutti i magistrati d'Italia oggi direbbero quello che dice D'Ambrosio, magistrato in pensione, perché tutti hanno sempre fatto così, perché questo prevede la legge. E comunque dicevi, il precedente è un autogol. Il precedente, citarlo, è un autogol, perché dà esattamente torto all'attuale Presidente della Repubblica. Nel 1993 Scalfaro viene intercettato, non lui naturalmente perché era il capo dello Stato e non si poteva, viene intercettato un banchiere, suo amico di Novara, coinvolto in uno scandalo, poi non so come sia finita la cosa. Comunque la voce di Scalfaro entra in un'intercettazione della Procura di Milano, la Procura di Milano fa tutte le sue indagini. Nel 1997, quando si conclude l'indagine, che cosa succede? Succede quello che è successo adesso a Palermo. Vengono depositati gli atti dalla Procura di Milano e in questi atti compare questa telefonata, che è stata, a differenza di quella di Napolitano, addirittura trascritta, quindi depositata, quindi alla fine dell'indagine pubblicata dai giornali. Ok? Una telefonata del Presidente della Repubblica in carica, no? Intercettato sulla linea di questo banchiere coinvolto in un... Quindi, perché è un autogol ricordare questo precedente? Perché Scalfaro si è comportato nella maniera opposta rispetto a Napolitano, non ha strillato contro i magistrati, non ha sollevato alcun conflitto di attribuzione contro la Procura di Milano, non ha detto una parola, nemmeno quando sono state pubblicate le sue parole, semplicemente c'è stato un dibattito in Parlamento, suscitato credo da Cossiga, che voleva era da Cossiga, Zania, tra le istituzioni e i magistrati, perché perfidamente si divertiva a fare quei giochetti. E che cosa è successo? Che il ministro della giustizia, allora Flick, intervenne in Parlamento dicendo che secondo lui lo spirito della legge non era quello che era stato seguito dalla Procura di Milano, ma dato che mancavano i precedenti e soprattutto mancava una legge chiara su questo punto, c'erano gli estremi per fare alcun rilievo alla Procura di Milano. Adesso io vorrei capire per quale motivo, visto questo che precedente diventa invece una specie di cosa, come dire che c'erano i fondamenti del bisognerebbe punire quelli di Palermo perché hanno fatto la stessa cosa che hanno fatto tutti i magistrati in questi anni, quando intercettando il telefono di un privato hanno scoperto che quel privato parlava con un politico, un parlamentare, che non poteva essere direttamente intercettato. Certo. Semplicemente si sono regolati come stabilisce la legge. Un'ultimissima cosa, secondo te, che è il sottostante di molti dei rilievi iniziali di coloro che difendono il Quirinale, l'argomento per il quale ha un rilievo anche l'atteggiamento tenuto dal pubblico ministero Ingroia, che viene accusato di essere irrispettoso, troppo politico, eccetera, eccetera, ha un peso o no nella vicenda? Cioè, di fronte alla decisione del conflitto di attribuzione, c'è anche il desiderio implicito da parte del Quirinale di dire voi state esagerando perché fate troppa politica oppure no? Ma sai, io credo che bisogna distinguere nettamente tra i magistrati che parlano e i magistrati che fanno politica. I magistrati che fanno politica sono quelli che si schierano con un partito contro un altro, con una parte contro un'altra, e non sono imparziali quando si occupano di personaggi politici. Io Ingroia non posso negare sicuramente, poi lo conosco molto bene, non si può negare che parli molto. Non mi pare che il suo parlare sia fare politica, nel senso che io gli ho visto dire delle cose terribili su certe leggi, a cominciare dall'indulto del 2006, fatte dal centro-sinistra, e cose altrettanto terribili su certe leggi fatte dal centro-destra, dal suo punto di vista di magistrato antimafia. Mi pare che sia una persona assolutamente coerente e imparziale, nel senso che lui ha un'idea della giustizia, che peraltro è quella fissata dalla nostra Costituzione, e i politici che vanno fuori da questa linea, lui li critica legittimamente con la stessa competenza con cui un chirurgo valuterebbe la riforma del bisturi. Non credo che c'entri il fatto che parla, perché in questi anni abbiamo visto attaccare ferocemente anche magistrati che non si sa nemmeno che faccia hanno e che voce hanno e che cosa dicono. Credo che quello diciamo sia un testo che si inventa per nascondere la vera posta in palio, che è la trattativa fra lo Stato e la mafia, che ha coinvolto il centrodestra e il centrosinistra, la prima repubblica e la seconda repubblica, apparati dello Stato che vivono ancora oggi all'ombra del Viminale, quel Viminale nel quale negli anni sono passati prima Mancino, poi Napolitano e poi tanti altri. Eh sì, anch'io in definitiva, pur non occupandomi con la stessa intensità e conoscenza di Travaglio, ho nettamente questa impressione. E non capisco, a dirvi la verità, quando Carlo Galli, che invece l'editoriale firma l'editoriale su Repubblica, quando Carlo Galli scrive oggi che siamo in presenza, testuali parole, di un conflitto che ha gravissime implicazioni, altissime potenzialità di crisi istituzionale, e proseguendo nello sviluppo dei suoi argomenti dice che la questione fondamentale è che un capo dello Stato non può essere intercettato neppure occasionalmente e incidentalmente. Chi abbia sentito il ragionamento di Marco Travaglio capisce che questo argomento sull'incidentalmente o occasionalmente è semplicemente infondato, cioè non può oggettivamente essere così, né nel nostro ordinamento è previsto che sia così. Il regime di tutela per il capo dello Stato riguarda tutt'altro che finire occasionalmente e incidentalmente all'interno di una conversazione su un'utenza verso la quale un GIP abbia autorizzato la richiesta del PM l'intercettazione, perché non esiste un apparato disinserisca se viene formulato un numero che abbia a che vedere con il Quirinale. Quale sarà lo sviluppo, e davvero Marco Travaglio ci deve lasciare, lo sviluppo secondo te di questa vicenda? Davvero una conflittualità così altissima e potenzialmente gravissima come dice Repubblica oggi? Ma guarda, l'unico modo per evitare questa presunta conflittualità era quello di fare come ha fatto Scalfaro, lasciare che la giustizia facesse il suo corso. Se uno non ha niente da nascondere, per quale motivo dovrebbe scatenare tutto questo pandemonio? Noi avevamo suggerito anche una via d'uscita al capo dello Stato. dato che lui è una parte interessata in questo processo, perché occasionalmente, involontariamente, è stato intercettato sul telefono di Mancino, va a chiedere alla procura di Palermo la trascrizione delle sue intercettazioni, le pubblichi lui, così avremmo immediatamente saputo se davvero in quelle telefonate non c'è niente, oppure se invece c'è qualcosa da nascondere. Sì, pare che è quello che sarebbe avvenuto. Tutti i giornali del mondo avrebbero chiesto a qualunque capo di Stato o di governo del mondo che si fosse trovato una situazione del genere, e molti avrebbero sospettato, nel caso in cui la risposta fosse non solo non le rendo pubbliche, ma addirittura chiedo che vengano distrutte prima, contro qualsiasi norma di legge. Poi alla fine, sai, il commento, io su Repubblica leggo volentieri Franco Cordero, che è il principe dei processualisti italiani, garantista di prima di antica data, il quale in un'intervista al Fatto e in un articolo su Repubblica ha detto che non c'era assolutamente nulla di irregolare nell'operato della Procura di Palermo, quindi il resto sono valutazioni politiche che purtroppo prescindono dalla legge. Infatti Galli non indica alcuna norma nella quale d'accordo. Si preveda che i magistrati debbano fare ciò che il Presidente della Repubblica pretende che facciano o che la Corte gli intimi di fare. Allora, io ringrazio moltissimo Marco Travaglio. Ripeto, noi stiamo trattando di una circostanza particolarmente inquietante, perché è relativa a telefonate di Mancino che chiede che venga posto uno stop alle attività di indagine relative alle trattative Stato-mafia, in particolare alla ricostruzione delle responsabilità politiche, Ministero dell'Interno, Ministero di Grazia e Giustizia, negli anni in cui Scalfaro il presidente, molti dei protagonisti di quelle vicende come Conso non ci sono più. A maggior ragione non è una vicenda sulla quale l'interesse pubblico e della giustizia possa essere trattato come se fosse una telefonata incidentale andata oltre la linea di un qualunque signore che per caso chiamava il Quirinale. Stiamo parlando di uno dei misteri neri al centro della storia del passaggio tra la prima e la seconda Repubblica, e secondo me i colleghi del Fatto hanno ragione a dire, con la stessa coerenza con cui hanno sostenuto questa tesi relativa a parlamentari o a ministri del centrodestra o del centrosinistra, nello stesso modo chiedono che ciò che valeva per loro valga anche per il Quirinale. Non c'entra il giudizio complessivo sull'operato politico di Napolitano, ma se vale per Napolitano quando ci sono io niente, allora doveva valere anche per altri. Delle due l'una, e non si scappa. Grazie a Travaglio. Devo innanzitutto riparare immediatamente a un gravissimo errore, perché detto che Conso è scomparso, invece è vivo, ha 91 anni, lunghissima vita, spero di avergli aggiunto un ulteriore pezzo con il mio gravissimo e ignorantissimo commento, si deve al fatto che appunto Anziano non interviene su questa vicenda, perché in realtà stiamo parlando esattamente della sostituzione di l'allora capo del Dipartimento per gli Affari Penitenziari, che era Amato, non Giuliano Amato ovviamente, con un altro responsabile del Dipartimento. Conso era ministro della giustizia del governo tecnico, e fu Scalfaro, allora capo dello Stato, a procedere alla segnalazione di un nome diverso, chiedendolo a Curioni, e Conso eseguì, e su questo nome diverso, collegato all'eventualità della sospensione del 41 bis, il carcere duro per i mafiosi, e l'indagine, un'indagine quindi che sarebbe utilissima secondo me, anche perché sapete perfettamente che per 18 anni ci è stato poi raccontato che invece la trattativa era con Berlusconi, avendo la mafia, aveva individuato in Berlusconi la leva per sbarazzarsi del carcere duro. Ed è in relazione alla ricostruzione, all'indagine giudiziaria su questa vicenda, che poi Mancino telefona al Quirinale, ai consigli del capo dello Stato, e due volte anche col capo dello Stato parla per dire la procura di Palermo si può fare qualcosa per fermarla, ma è un mistero insoluto. Perdoni quindi Conso, i suoi familiari, i suoi cari, i suoi amici. Umilmente mi prostro in ginocchio, perché quando si fanno errori di questo tipo, oltretutto irrispettosi della vita, bisogna assolutamente mettersi il cappello del somaro sulla zucca. Allora, sentiamo qualche telefonata. Ruggero da Torino, come la pensa Ruggero sul conflitto di attribuzioni sollevato dal Quirinale? Buongiorno dottor Giannino, buongiorno dottor Travaglio. Ho perso qualche minuto, ma spero di non ripetermi. Premessa, sono anti-berlusconiano da sempre e ferocemente anti-berlusconiano. Leggo Repubblica dal 14 gennaio 76. Stavolta Scalfari sbaglia clamorosamente e Scalfari, insieme, come dice il dottor Travaglio, è il suggeritore di questa strategia del Quirinale. Se si va a vedere il decreto del Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica cita espressamente Luigi Einaudi per dire che incarica l'Avvocatura dello Stato per difendere l'istituzione e non se stesso, ma la luna di cui parla il dottor Travaglio correttamente è oltre la trattativa Stato-Mafia. La luna è la scelta del partito Repubblica di sostenere a spada tratta il governo Monti, che nasce, come bene si sa, dall'iniziativa del Presidente della Repubblica. Direi che questo aspetto non deve essere sottovalutato, anche perché davvero quello che scriveva Scalfari due domeniche fa o tre domeniche fa era decisamente impresentabile da bocciatura di procedura penale a giurisprudenza, nonostante il dottor Scalfari abbia conseguito la laurea nel 1946, bene fanno i signori del fatto a non mollare che si tratti di Berlusconi o si tratti di Napolitano. Può sbagliare anche Giorgio Napolitano, e santificarlo per insistere affinché nel 2013 eventualmente sia ancora lui il presidente, ancora Monti il presidente del Consiglio, mi sembra che davvero sia no al partito Mediaset, no al partito Repubblica. Ruggero, io sono convintissimo anche che il ragionamento che avanzi, cioè quello politico, che non c'entra nulla con la vicenda e che si tratti di difendere la fonte dell'autorevolezza del governo tecnico, abbia la sua incidenza, e questo spieghi Corriere Repubblica e la loro congiunta posizione. Mi sembra una considerazione molto fondata e, ripeto, insieme a te condivido, non ha alcuna attinenza però rispetto all'applicazione della stessa legge. Poi se non piace si cambia, ma intanto della stessa legge e nella stessa interpretazione, tanto ai politici che hanno protestato prima quanto al Quirinale anche oggi, senza alcuna lesione delle prerogative del Quirinale stesso. Jacopo, dalla provincia di Ferrara, come la pensa Jacopo? Buongiorno Giannino. Io la penso esattamente come lei. A me non sorprende che un politico qualsiasi o ex politico chiami il Quirinale. Mi sorprende se il Quirinale cerca di coprire azioni illecite. Io voglio sapere se la trattativa Stato-Mafia è stata o è ancora in atto, e mi indigna moltissimo che il presidente alla cui elezione io ho applaudito, cioè il mio presidente della Repubblica, mi copre operazioni di questo tipo. Ecco, questo mi indigna profondamente. Grazie anche a Jacopo. Gabriella da Cagliari. Buongiorno, intanto Giannino, cerco di essere molto sintetica, condivido appieno e grazie di esistere lei per la sua trasmissione. Inoltre l'esposizione di Travaglio è stata egregia, ha espresso in parole il mio pensiero, e devo dire che il capo dello Stato avrebbe fatto bene a tacere, e aggiungo che sicuramente questo è ciò che ho pensato subito, alla coda di paglia, e quindi farebbe bene a tacere e far fare il suo corso. È necessario continuare, perché io voglio sapere, io come cittadina. Ringrazio e non vi trattengo. Grazie. Grazie a te Gabriele anche per la concisione. Massimo da Milano. Buongiorno a tutti. Condivido i commenti, cercando di interpretare le cause che possono aver indotto il capo dello Stato e forse anche Mancino ad agire in questo modo. Immagino, ma è immaginazione, che temano l'effetto potenzialmente deflagrante di un approfondimento sulla vicenda della trattativa Stato-Mafia, forse non tanto per una parte politica, ma per il sistema istituzionale nel suo complesso. È solo un'ipotesi, niente di più. Esatto. Massimo, e in ogni caso sarebbe bene sapere, perché ripeto, per tanti anni la semplificazione massmediologica è stata in capo a una parte politica, anzi è stata la spiegazione del perché Berlusconi scendeva in campo, una delle spiegazioni fondamentali, collegata anche all'incertezza dell'origine di molti dei suoi capitali negli anni precedenti, mentre invece le circostanze temporali di fatto sono relative al governo tecnico precedente, e fu Scalfaro a fare il nome del sostituto di Amato al capo del DAP, di cui il rallentamento, l'attenuazione del 41 bis, poi rigirato invece è tornato alla sua durezza. Grazie, spread in calo, ma insomma siamo sempre intorno a quota 480-490, quindi calo si fa per dire. Nei prossimi giorni approfondiremo che cosa può attendere l'Italia se la soglia di spread va stabilmente, cioè per diversi giorni di seguito, sotto quota 500. Mi duole dire, segnalare che la decisione della Corte Costituzionale tedesca, la Corte di Karlsruhe, di prendersela lunga nel giudizio di costituzionalità sull'ESM fino a settembre segnala ai mercati che ad agosto si può venire all'attacco. Quindi bisogna sapere che per l'Italia, che è esposta nella prima fila, nella cintura esterna dei paesi a rischio dopo gli aiuti anche alle banche spagnole nel nostro turno, l'ipotesi di interventi straordinari che ci vengano chiesti, molto pesanti, ulteriormente pesanti, è purtroppo forte, temibile e realistica. Ma abbiamo un ospite, Matteo Spaggiari, perché ieri abbiamo ricevuto una comunicazione che mi ha da una parte colpito e dall'altra riempito di gioia, però voglio capirla meglio, perché abbiamo ricevuto una comunicazione che annunciava che come seguito, o comunque partendo dallo spunto della nostra iniziativa per mesi di dare voce alle piccole imprese, alla moria di piccole imprese del lavoro che esse danno insieme, disperati mai, era nata un'iniziativa diversa che si chiama Chiusi Mai. È così o no, Matteo Spaggiari? Buongiorno innanzitutto. Buongiorno dottor Giannino, grazie e complimenti per la trasmissione. Come diceva lei, qui a Modena i giovani imprenditori sono particolarmente incalzati. Da questo stato d'animo nasce questa iniziativa in seno al gruppo giovanile di La Panfedera Impresa di Modena, e grazie anche al supporto e alla promozione dei senior. È un movimento, come spesso ricorda anche lei, che nasce spontaneo per manifestare un po' il nostro dissenso verso una politica che ha completamente dimenticato i giovani, le imprese giovanili, grandi proclami, ma operativamente purtroppo il nulla. Allora, quali potrebbero essere i punti su cui vi state aggregando e proponete l'aggregazione e l'estensione di un movimento come il vostro? Guardi, i punti sono diversi, sul quale cerchiamo di aggregare, e da qui l'iniziativa Chiusi Mai, nel quale vuole portare appunto un dissenso attraverso appunto un sito web nel quale chiunque può aderire, indicare il proprio nominativo, le persone alle quali fanno parte della propria impresa, e stampare una lettera e manifestare al Ministero dello Sviluppo Economico il nostro dissenso per diversi punti, come ad esempio il credito. Tanto per fare un esempio, per un giovane imprenditore consideri che ci viene attribuito un rating pari a un'impresa default, quindi già dobbiamo combattere con chi ha scommesso contro il nostro fallimento. Non possiamo certamente così portare avanti le nostre imprese, le nostre idee, i nostri progetti imprenditoriali. Siamo in un paese che a nostro avviso ha dimenticato completamente il tema del ricambio generazionale, la salvaguardia tra il patto generazionale. Oggi veramente è difficile per un imprenditore comunque fare imprese, ma per un giovane imprenditore in particolar modo, che si trova comunque tutto contro da questo punto di vista. Proclami da parte della politica, l'impresa con un euro è effettivamente stato un proclamo, ma che senso ha costituire l'impresa con un euro quando il mercato ci chiede capitalizzazione? Così come altre iniziative con approvazione di legge, tipo sulla legge 3696, alla quale abbiamo aderito, che favorisce e sostiene lo sviluppo di nuove imprese giovanili o la salvaguardia attraverso così altri aiuti e incentivazioni fiscali e tributarie, che giacciono in commissioni politiche, quindi una politica che in questo, nei fatti, ha abbandonato le nostre imprese giovanili. Allora, io ricordo a tutti, questo è un altro dei capitoli in cui si ricade nel libro Sudditi, che ricordo a tutti, siamo ancora nelle classifiche di buona vendita, perché credo che questo titolo di questo libro, Sudditi, sia concisamente il simbolo ecastico della condizione nella quale ci troviamo oramai, ci troviamo come lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, imprenditori rispetto a uno Stato che si è reso sordo e cieco nella capacità di interpretare i segnali che vengono dall'economia. Vogliamo ripetere, come si chiama il vostro sito, per esteso di preciso, così quindi, chi ci ascolta può... www.chiusimai.it, a chiunque, quindi un appello a tutti i giovani imprenditori, ma anche agli imprenditori che credono nella loro impresa, nel loro progetto imprenditoriale, che con difficoltà portano avanti il loro progetto, si possono collegare e quindi scaricare questa lettera e unirci a noi in questa iniziativa. Quindi il momento è particolarmente difficile, non ci possiamo permettere di aspettare ancora mesi per avere risposte concrete, la situazione è quella che enuncia lei tutti i giorni, di grande difficoltà. Da qui nasce questo movimento, quindi vi aspettiamo tutti numerosi. E quindi unitevi a noi e portiamo avanti i nostri intendimenti per chi ha così crede nella propria impresa, nella propria vita e che quale motivo di sviluppo economico, professionale, sociale. Mi segua un secondo perché non sono interessato a farle alimentare delle polemiche di rappresentanza, sì. Però io ho un po' l'impressione che le associazioni di rappresentanza d'impresa, da quelle di Rete Impresa Italia, Commercio Artigianato eccetera, fino a Confindustria, l'API e così via, hanno da una parte un problema istituzionale, devono sempre avere rapporti con i governi, tentare in qualche maniera un canale istituzionale, e ovviamente in questo tentativo non viene facile e naturale poi anche protestare usando i toni duri. La mia opinione è che movimenti come il vostro si sommino esattamente per fare questo, è corretto secondo lei? Sì, guardi, io penso che quando il fine è nobile non c'è una casacca da portare avanti, ma c'è un'unione di intenti, anche perché è vero, vi sono state anche recenti sovrastrutture di rappresentanza che oggettivamente non hanno diciamo così, portato avanti in modo così efficiente con risultati così visibili. È ovvio che il momento, a mio avviso e a nostro avviso, è particolarmente delicato, qui non ci possiamo più permettere come imprenditori di aspettare mesi, anni per avere delle risposte concrete. Allora Spaggiari, io la devo fermare su questo appello perché purtroppo condivido, il tempo passa, la moria di imprese e di lavoro avanza e il peggio potrebbe ulteriormente venire. Mi dicono che sono troppo pessimista, ma io sono solo realista, quindi grazie anche a Chiusi Mai, andate sul sito, esaminate se dare il vostro sostegno a quella lettera al ministro delle attività produttive. L'appuntamento intanto con noi è per domani, se vorrete.